5e. Ascolta e rispondi. Mi mandi il libro? Sì, te lo mando volentieri. Mi presti il tuo libro? Sì, te lo presto volentieri. Mi mostri il tuo appartamento? Sì, te lo mostro volentieri. Quando ci direte la verità? Ve la diremo domani. Quando ci riporterete l'auto? Ve la riporteremo domani. Quando ci invierete una email? Ve la invieremo domani.